1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:19 minuti e mentre si volge, volgiamo al termine della 74esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Voi siete ancora, lo so, vi vedo rallentati nei vostri movimenti, mentre prolungate le vostre colazioni, il figlio che scalpita, dai vestiti che dobbiamo andare a scuola! Classicone delle famiglie italiane. Vabbè, oppure siete già in pista, come si suol dire. Allora oggi parleremo di che cosa? Un anno dalla tragedia di Lampedusa. Ricordate, 360 morti. Parleremo di Mare Nostrum. Avremo, oltre alla nostra inviata Valentina Furlanetto, il confronto tra due approcci sicuramente diversi, due politici che non sono nati in Italia ma vivono in Italia ormai da anni, in alcuni casi sono italiani. Avremo già Leonardo Adì, che è un deputato del Partito Democratico. Avremo Tony Iwobi, che è nato in Nigeria, è il nuovo responsabile immigrazione per la Lega. E poi parleremo anche di vitalizi ai consiglieri regionali, la proposta che sta mettendo in campo le regioni per cercare di limitare retroattivamente queste pensioni. Ne parleremo con il presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, che sta cercando di mettere a punto una proposta di legge che valga per tutte le regioni. Questo più tardi, ora andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo venerdì 3 ottobre siamo qui con i titoli. Il Sole 24 Ore, come molti quotidiani, apre sul crollo delle borse dopo il discorso di Mario Draghi a Napoli. Mercati e fuga dal rischio, crollano le borse europee, così il Sole. Mentre il Corriere della Sera, i mercati puniscono l'Europa. Per Repubblica, Draghi, ripresa debole, affondano le borse. Renzi, sto con Parigi. Il Messaggero, BCE, crisi lunga, borse a picco. Per il Manifesto, Napoli milionaria, ci sono i precari che ieri hanno contestato l'arrivo del presidente della BCE Mario Draghi nel capoluogo campano. La Stampa invece, manovra più leggera, sarà di 15-16 miliardi, questa è l'indiscrezione sulla Stampa. Mentre per Libero, tolgono gli scontrini ma ci aumentano l'IVA. Questo è il titolo di prima pagina. Il Giornale invece, la frustata di Berlusconi, insomma c'è stato un po' un caos all'interno di Forza Italia che racconteremo, mentre il Fatto Quotidiano si concentra su cosa? Caramazza e Totò Riina fanno arrabbiare Re Giorgio, Giorgio Napolitano. Caramazza è la vicenda della Consulta, Totò Riina per testimonianza che Napolitano dovrà dare al Quirinale nel processo Stato Mafia, e Totò Riina dice: voglio assistere anch'io alla testimonianza del capo dello Stato. Ve lo immaginate, Totò Riina scortato dai corazzieri dentro il Quirinale per assistere alla testimonianza di Giorgio Napolitano. In questo pazzo paese potremmo assistere anche a questo, chi lo sa. Ma voglio partire da che cosa? La notizia che aveva fatto scalpore con le dimissioni del maestro Muti nei giorni scorsi all'Opera di Roma e che ora torna sulle prime pagine dei giornali con la decisione da parte di Roma di licenziare, azzerando orchestrali e coristi, l'Opera di Roma stessa. Il Messaggero giustamente mette in prima pagina questa notizia con un titolo, non il titolo principale dedicato alla BCE, ma subito quello dopo: rivoluzione all'opera, azzerati orchestra e coro. Ma tutti i giornali dedicano almeno una pagina, se non due pagine, a questa vicenda bis. Sapete che Riccardo Muti aveva detto basta, non si può lavorare in pratica anche con le proteste dei sindacati, inaccettabili. E allora ecco qua l'azzeramento dell'orchestra, del coro dell'Opera di Roma, pagina 2-3 del Messaggero, la scelta di Marino, il sindaco. L'opera non chiude, subito licenziati coro e orchestra, una scelta senza precedenti del consiglio di amministrazione, via i contratti a tempo indeterminato di 184 musicisti. Da gennaio gli artisti potrebbero tornare in cooperativa. C'è anche un'intervista, pagina 3 del Messaggero, al sovrintendente Fuortes, perché intervistata da Simona Antonucci dice: così abbiamo messo fine all'era dei musicisti impiegati. Il contratto integrativo dell'Opera di Roma, così come era sviluppato in decenni, rappresentava un freno alla produttività, allo sviluppo, e il superamento di questo modello sarà un modo per far ripartire la lirica in Italia. 182 dipendenti a contratto indeterminato su 460 complessivi licenziati. Restano il corpo di ballo, i tecnici, gli amministrativi. È una scelta dura, difficile, dice il sovrintendente, ma è l'unica possibilità per sventare la chiusura e allo stesso tempo puntare alla qualità. Nel contratto integrativo c'erano delle vere e proprie aberrazioni. E ne elenca qualcuno, udite, il sovrintendente: se un musicista suona 4 ore un'opera di Wagner, percepisce uno stipendio. Se suona per un'ora una sinfonia di Beethoven, guadagna il doppio. Esistono indennità legate al tipo di strumento. Una tromba in sol è un conto, una tromba in si bemolle un altro conto. Ma esistono anche indennità legate al numero di musicisti. Lo stipendio aumenta se si è in 10, nonostante sia previsto dalla partitura. E il valore integrativo dell'Opera di Roma è del 42% in più rispetto al contratto nazionale. Ma non vorrei farne solo una questione economica. Mi piace sottolineare che l'esternalizzazione dell'orchestra, la creazione di un nuovo soggetto autogestito dai musicisti, cioè un'associazione, sarà uno stimolo al miglioramento. Beh, una decisione clamorosa, ma tutti i giornali la mettono così. Il Corriere della Sera: effetto Muti all'Opera di Roma, licenziati il coro e l'orchestra. E il Fatto Quotidiano: Opera, cacciati con un tweet. Il tweet è l'annuncio del ministro Franceschini. A proposito di tweet, Franceschini ha lanciato questo tweet: mi auguro una svolta coraggiosa. E poi c'è stato l'annuncio del licenziamento. A proposito di non tweet ma lettere, è tornato il nostro Adriano Celentano. Devo dire che io ho scaldato l'ugola, ma in questo caso le lettere maiuscole sono un po' poche. Ha fatto una lettera Adriano Celentano sul suo blog, ripresa da alcuni giornali come Repubblica, Carlo Brambilla, pagina 24, oppure Il Giornale, pagina 10. Una lettera per appellarsi al capo dello Stato Giorgio Napolitano per chiedere la grazia per Fabrizio Corona in carcere. Ma non ci sono le maiuscole, le ho cercate. È tutta una lettera invece compita: caro presidente, mi scusi se con tutti i grattacapi che immagino le abbia, anch'io mi accodo con una richiesta di grazia per Fabrizio Corona. Chiedo solo un po' di pietà per quel ragazzo che nel male ha agito bene, come disse Gesù. E ancora, la lettera è molto lunga. Pensi che io non l'ho mai conosciuto, scrive a Napolitano il nostro molleggiato, ma ho seguito le sue vicissitudini attraverso i giornali e la televisione. Ogni volta quando lo vedevo, lo sentivo parlare, avvertivo come un qualcosa che spaccava in parti uguali due sentimenti tra loro contrastanti. Da un lato mi irritava la sua spavalderia nell'ostentare tanta sicurezza, dall'altro avvertivo un senso di profonda tenerezza. Capisco che il giudice applichi la legge, ma ciò che non capisco è perché la applica quando vuole lui. Lei, signor Presidente, lo sa meglio di me. I criminali veri sono tanti e non si contano quelli che in galera passano molti meno giorni di quanti ne ha già passati l'esuberante fotografo. Certo, lui ha sbagliato, come ognuno di noi, chi più chi meno sbaglia. Probabilmente anche a lei sarà capitato quando si è giovani. È facile farsi prendere dalla voglia di arrivismo. Anch'io ne sono stato più volte sfiorato. Insomma, una accorata lettera di Adriano Celentano che conclude, insomma, la grazia per Fabrizio Corona. Questa è la richiesta di Celentano. Vabbè, Lugo la sta un po' tranquilla perché non ci sono maiuscole in questa lettera. Va bene, allora, però siamo al premio Mani sul Volante. L'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata è sicuramente la storia, a proposito di articolo 18, che viene raccontata in prima pagina dal Secolo XIX. Sentite bene e tenete le mani strettissime sul volante, perché già il titolo fa capire. Matteo Indice racconta la storia della vigilessa sorpresa a rubare, indennizzata con un anno e mezzo di stipendio. Quel che resta dell'articolo 18 può ancora vincere sulle telecamere di sorveglianza, le inchieste e l'intransigenza. La storia va in scena a Genova. Una vigilessa ruba una borsetta in discoteca e i video la inchiodano, senza che possa replicare granché. I suoi capi non fanno nulla. La notizia esce sul giornale e improvvisamente scatta il pugno duro. Ritiro dell'arma, sospensione, licenziamento. Ma lei fa ricorso in tribunale. Dimostra di avere grossi problemi psicologici. Il giudice le crede e dice che la punizione era illegittima. Però, sostiene il magistrato, non così clamorosa da giustificare la riassunzione, ma almeno l'indennizzo. L'indennizzo di 18 mesi di stipendio per la vigilessa. Sorpresa! Rubare una borsetta con le telecamere. C'è sempre un giudice a Genova. Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. Alessandro Milan, il cilentano per informazione. Certo, eccolo qui, il molleggiato. È la lettera per Corona, per la grazia Corona, no? Ma ci sono delle maiuscole. Per esempio, sì, quando si è giovani ha scritto Celentano a Napolitano. È facile farsi prendere dalla voglia di arrivismo, anch'io ne sono stato sfiorato e quando accade si sbaglia. Sempre! E vedete che ogni tanto... Vabbè, infierire, conclude Celentano, significherebbe assistere alla stupida amputazione di un'anima che sta per risorgere. Caro Presidente, la ringrazio. Vedremo se Giorgio Napolitano prenderà l'appello di Celentano. Comunque, veniamo alle cose più serie. Ieri Renzi era alla City di Londra e ha parlato di Europa. Si è rivolto con un messaggio molto chiaro ad Angela Merkel e al rigore tedesco. Non ci tratti da scolari. Questo è il titolo, per esempio, del Sole 24 Ore, pagina 7, con Gerardo Pelosi, che racconta il giorno alla City di Londra. Dopo sei mesi è tornato armato di slides per mostrare agli operatori della City dov'era l'Italia nel marzo scorso, sulle riforme, sul mercato del lavoro, sulla giustizia, sulla scuola, la pubblica amministrazione, e dov'è ora e dove sperabilmente sarà tra sei mesi. Ha parlato però di Europa Matteo Renzi nel giorno in cui sono crollate le borse. E ha detto: abbiamo bisogno di un cambiamento, l'Europa deve essere più flessibile. Questo è anche il messaggio affidato nel colloquio, nel faccia a faccia fatto con David Cameron, ovviamente facendosi molta forza di quello che la Francia ha detto, cioè sforeremo il 3%, anche se l'Italia dice invece noi no. Comunque i titoli dei giornali sono tutti declinati così: Renzi sfida Merkel, non siamo scolari. Questo è per esempio il titolo del Messaggero a pagina 7. E anche Repubblica: Renzi al fianco della Francia, Merkel non ci tratti da scolari, i conti dell'Italia sono solidi. Però attenzione, Repubblica con Alberto D'Argenio racconta in un retroscena pagina 4 che l'Europa ci guarda con molta attenzione. Il nostro nemico politico in questo momento si chiama Barroso, cioè il presidente della Commissione Europea uscente per far posto al presidente eletto Juncker. Italia a rischio bocciatura, Barroso tenta l'ultimo blitz. Questo è il titolo. Alberto D'Argenio racconta: ci sono alcuni soggetti della Commissione Europea dei quali non ci fidiamo. Così chi segue il dossier conti pubblici per il governo Renzi è lapidario. Sono ore infuocate nei negoziati tra Roma e Bruxelles. Il pericolo oggi porta il nome di José Manuel Barroso, presidente uscente della Commissione, per 10 anni mansueto verso i governi, ma che ora potrebbe lasciare con un colpo di coda, bocciare i conti italiani. La partita è difficile. Roma, dopo aver aggiornato il DEF pubblicato, ha sancito che nel 2015 non taglierà il deficit strutturale come imposto dalle nuove regole. Il risultato di far lievitare ulteriormente il debito. Ed ecco allora che Barroso potrebbe puntare sulla bocciatura. Il calendario è questo, segnatevelo: il 15 ottobre Roma spedirà a Bruxelles la legge di stabilità. Bruxelles avrà 15 giorni per stabilire se bocciarla o dare l'ok. Dunque la decisione arriverà il 30 ottobre, penultimo giorno della Commissione europea guidata da Barroso e con Katainen responsabile delle politiche economiche. Qui ci giochiamo molto da parte della bocciatura o meno della Unione Europea. Intanto si pensa appunto a questa manovra. Come sarà questa manovra da 20 miliardi alla legge di stabilità? Beh, intanto La Stampa anticipa, e lo fa in prima pagina, che forse non sarà di 20 miliardi questa manovra, forse sarà di 16. Palazzo Chigi studia la manovra leggera, non oltre i 16 miliardi. Questo è il titolo di pagina 3. L'ipotesi piace a Padoan, 12 miliardi dovranno venire dai tagli alla spesa e spunta anche l'una tantum non fiscale che ne porterà altri due. Racconta La Stampa che la decisione definitiva ancora non c'è, ma Palazzo Chigi sta maturando la volontà di varare con la legge di stabilità una manovra molto più leggera di quello che si era detto finora. 15, forse 16 miliardi anziché i 20 ipotizzati. Dove si trovano i soldi? Oltre a quello che è l'idea del taglio della spesa, beh, intanto nel taglio della spesa c'è un po' tutto. Il Sole 24 Ore racconta che la partita più delicata è proprio quella sulla sanità, col ministro Lorenzin e anche le regioni in prima fila a dire qua non bisogna tagliare nulla. Però oggi il Sole 24 Ore racconta che dalla sanità ci sarà almeno 1 miliardo di tagli. Marco Mobile e Marco Rogari raccontano non meno di 800 milioni, ma si arriva a 1 miliardo. A meno di 2 settimane dal varo della legge di stabilità, l'obiettivo sembra essere questo. Ricordate che nei giorni scorsi si parlava di 2 miliardi, quindi pare tagliato almeno a metà il taglio nel comparto della sanità. Resta però in piedi, scrive il Sole, anche l'ipotesi dell'intervento consistente vicino ai 2 miliardi con ricadute sul fondo sanitario e il patto sulla salute per la salute con le regioni. Qui è una partita politica, se i governatori delle regioni si mettono di traverso oppure no. Insomma, diciamo che dalla sanità però si andrà a recuperare molto, 1 miliardo/2 miliardi. Sempre riguardo la manovra, Franco Bechis di Libero racconta, pagina 3, che in realtà, attenzione cari italiani, l'ipotesi, il rischio è quello del solito trucchetto, e cioè, scrive Libero con tanto di titolo in prima pagina, ci tolgono gli scontrini ma ci aumentano l'IVA. I nuovi 51 miliardi di tasse, pane, latte e ancora case. Salasso in vista su IVA, benzina, immobili. Questo è il titolo molto minaccioso di Libero, per la verità. Franco Bechis è un giochino che ormai procede da 4 anni buoni di finanza pubblica. Dall'ultimo anno del governo Berlusconi in poi lo fece Giulio Tremonti, l'ha fatto Monti, l'ha fatto Letta. Il giochino è questo. Si scrive una super manovra dettata dall'Europa, ma non si ha voglia né coraggio di presentare ai propri elettori un salasso senza precedenti. Quindi, per far tornare i numeri, si infilano norme in assoluta libertà, ben sapendo che in gran parte non daranno nessuna entrata o risparmio di spesa reale. E poi come finisce questo giochino? Si inserisce la clausola di salvaguardia. A fronte di norme fuffa si mette una copertura vera in caso di fallimento pressoché certo delle prime ipotesi. E in genere la clausola di salvaguardia è questo. Vabbè, se non si riesce poi a tagliare come si prevede la legge, tra 2 anni scatta l'aumento dell'IVA. E Libero racconta, attenzione, perché il giochino sarà ancora una volta questo. Verrà messa la maxi clausola di salvaguardia nella manovra, per cui si fa bella faccia con l'Unione Europea. Si dice, vedete, facciamo così. In realtà si mettono delle norme che non produrranno efficacia, ma la clausola di salvaguardia, cioè il salvataggio, l'ancora di salvezza per lo Stato, c'è alla fine, dicendo vabbè, se non riusciamo a fare a ottenere risultati con tutto questo, sapete che c'è, mettiamo una bella salvaguardia, aumenteremo l'IVA tra 2 anni. Che dobbiamo fare? A proposito di IVA, o meglio di conti, il Corriere della Sera invece racconta con Mario Sensini a pagina 5 che è scomparsa la spending review. Ma come? Ne abbiamo parlato per mesi con un altro commissario, Cottarelli, che tra poco dovrebbe tornare al Fondo Monetario Internazionale. Conti pubblici, scompare la spending review. Nel documento di economia e finanza i tagli del 2015 che erano annunciati per 16 miliardi si fermano a 5 miliardi. E invece nel 2016 i tagli saranno, secondo il DEF, zero. Ma come? La spending review. Dove, Mauro Meazza, dove è andato? Ce l'hai in tasca la Spending Review? Tirala fuori. Ma no, buongiorno Alessandro. Buongiorno. È che le due notizie che tu astutamente hai letto, candidamente hai letto l'una dopo l'altra, sono legate. Cioè funziona, noi dovremmo, funziona un po' così. Lo Stato dice, noi dovremmo fare i risparmi e sarebbe la Spending Review. Però se noi non riusciamo a fare i risparmi, facciamo che li fate voi. E quindi c'è l'aumento anche in automatico eventualmente dell'IVA. Alla fine i conti tornano, qualcuno i soldi li mette alla fine. Lo so, ma tu sei stato malizioso a collegare queste due notizie, invece vedrai che la Spending Review ci sarà. Ad esempio sul Sole 24 Ore si informa che si sta cercando di risparmiare almeno 1 miliardo dalla sanità. Vedremo dove però il taglio andrà a colpire. Insomma, l'abbiamo detto. La partita è ancora aperta, non essere precipitoso, perché adesso mi spiace parlare di calcio, so che tu ieri non avevi modo di seguirne alcuno, però diciamo così che la partita della Spending Review è tutta ancora da giocare, vedremo che succede. C'è stato calcio ieri? Non ti preoccupare, niente di importante, niente che ti riguardi. Ti ricordi che ieri ti ho parlato di petrolio? Come no? Dall'America. Perché, caro mio, perché il petrolio, come leggi oggi sulle prime, tra le prime pagine del Sole 24 Ore, sta ribollendo, c'è una sorta di scontro sui prezzi molto forte con maxi ribassi da parte dei sauditi, perché adesso c'è una sorta di guerra commerciale in atto. Ma questo, che potrebbe essere in altri tempi una buona notizia, non lo è di questi tempi di deflazione. Ma adesso non ti posso spiegare tutto. Sissi Bellomo e poi anche Roberto Bongiorni sulla pagina oggi del Sole 24 Ore ti spiegano tutto con dovizia di particolari. Così come naturalmente c'è la bussola del risparmiatore, le borse hanno fatto un po' di scossoni, hanno avuto un po' di rovesci ieri, allora oggi, come sempre in questi casi, il Sole 24 Ore presenta una bussola per i risparmiatori per capire come muoversi. Ti voglio anche dire che dal prossimo anno, caro, arriva il nuovo ISEE. Tu già non te ne ricordavi più dell'ISEE. Effettivamente. Lo so, vabbè. L'ISEE è il riccometro, detto in termini popolari, cioè quella certificazione che dice che se tu hai redditi, come dire, abbastanza bassi o nella soglia tale per poter avere accesso a determinati servizi, che so, tasse universitarie ridotte piuttosto che accesso alle scuole, agli asili comunali, eccetera eccetera. Ecco, sarà pronto per il 2015. Dove l'ho letto? Indovina un po'. Forse su Norme Tributi. Nelle pagine di Norme Tributi. E poi, visto che tra un po' mi tocca dire come va la viabilità, mi tocca annunciare come va la viabilità, ti voglio parlare di autoriciclaggio. Ho fatto anche questa freddura della mattina. Le tazze di latte che si sono rovesciate con questa freddura. Ma posso avere anch'io la maglietta, avendo telefonato a Radio 24, giusto, visto che è il compleanno di Radio 24. Una maglietta per Meazza, mi sembra. Una maglietta posso averla, sì. Perché no, vorrei fare gli auguri a Radio 24, perché compie domani 15 anni, giusto? Esatto, domani, il 4 ottobre, ma ne festeggiamo già da oggi. Maglietta speciale rosso-nera per Mauro Meazza. Grazie, se si può avere un'altra nuance di colori ti sono grato. L'autoriciclaggio però è una cosa seria, ma ti rimando alle pagine di Norme e Tributi, che te lo dico a fa, perché permetterà forse di sbloccare anche tutto il decreto, tutto il movimento che c'è attorno alla voluntary disclosure, cioè incentivare il rientro di capitali detenuti in modo illegale. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, il ciupa ciupa dell'informazione. Allora, ieri è successo l'inferno alla direzione di Forza Italia. Come raccontano i giornali, una rissa verbale in piena regola tra Berlusconi e Fitto, tanto che poi in serata Berlusconi ha dovuto emanare la seguente nota: ho detto a Fitto quello che penso con franchezza, come un padre con un figlio che commette errori. Non volevo offendere lui o la sua famiglia. Perché c'è questa frase, quando si è raggiunto il climax, sapete che Fitto è contrario alla linea pro-renziana di Forza Italia, cioè di Alleanza, contesta, bisogna essere oppositori duri di Renzi, e a questo punto Berlusconi ha iniziato a urlargli: io ti caccio, sei figlio della vecchia DC, sei figlio di uno della DC, così Berlusconi ha fitto. E poi addirittura gli ha detto: sembri un parroco di Lecce, vaffanculo, io ti caccio, tuo padre era della DC, sei come l'NCD. Insomma, queste le accuse di un Berlusconi che viene dato come paonazzo a urlare in faccia a Fitto. Il giornale racconta che nell'apice dello scontro Renato Brunetta scoppia a piangere, tanta è la durezza dello scontro. Capezzone torna a parlare di politica, anche lui dice non dobbiamo stare con Renzi, e Verdini gli replica: usa il cervello, usa il cervello, se poi andiamo a votare col vecchio Mattarellum è colpa tua e io ti picco a un albero. E vedete, questo, vabbè, ma succede quando gli scontri verbali sono così, è chiaro che non è che uno dice delle cose che poi farebbe veramente, però voi vi immaginate dopo tutto questo quanto sarebbe bello anche la diretta streaming per i convegni di Forza Italia come nel PD. Ecco, lo scontro è Fitto e Berlusconi cerca la rissa, vaffanculo. Questo è il titolo di pagina 4 del Fatto Quotidiano, Berlusconi a Fitto, che racconta Paola Di Caro in un retroscena, pagina 9, in serata dice: voleva provocarmi, voleva che esplodessi, che urlassi, che me ne andassi, anche quel riferimento a mio padre, morto a 47 anni in un incidente stradale quando io ne avevo 18, certe cose non si devono dire. L'accusa è questa: se tuo padre era della DC, e soprattutto parli come un parroco di Lecce, così Berlusconi ha urlato a Fitto. Vabbè, staremo a vedere. Tanto Repubblica racconta che nel centrodestra qualcosa si muove, perché a pagina 13 Tommaso Ciriaco, siamo su Repubblica, racconta che 10 senatori del nuovo centrodestra di Alfano sarebbero pronti a lasciare il partito. Con Silvio Berlusconi pronto a dire: bene, così decido io se il governo va avanti. Sono tutti o quasi senatori meridionali alfaniani delusi, per esempio l'ex sottosegretario Antonio Gentile, i senatori calabresi Bilardi, Aiello e ancora Guido Viceconte, Antonio Dalì, forse Michele Cassano, probabilmente un senatore campano. Sono tutti dati in uscita dal nuovo centrodestra, questo almeno dice e scrive Repubblica. Vabbè, veniamo alla cronaca. Voi vi immaginate Totò Riina e Leoluca Bagarella che entrano al Quirinale scortati dai corazzieri per assistere, cioè la mafia che entra al Quirinale? Immaginate questa scena. Potrebbe succedere in Italia, dove sapete che i PM andranno al capo dello Stato il 28 ottobre, alla fine Giorgio Napolitano testimonierà nella presunta trattativa Stato-mafia nel processo che c'è a Palermo, e i magistrati andranno al Quirinale, e Totò Riina e Leoluca Bagarella, attraverso i loro avvocati, hanno detto: vogliamo assistere alla testimonianza del testimone, del teste, e ci sarà un pronunciamento. Ovviamente si sono tutti opposti, ma ci sarà un pronunciamento della Corte d'Assise con decisione che sarà comunicata la prossima settimana. Sapete che bella immagine a livello mondiale? Totò Riina che entra coi corazzieri che gli fanno, si fanno da parte per far entrare una macchina, immagino blindata, con Totò Riina a bordo. Vabbè, vedremo la decisione che verrà presa la prossima settimana. Vi segnalo solo un articolo, e ce ne sono vari per la verità, da Dallas, Stati Uniti. Tutti raccontano la fobia che c'è ora per la questione dell'Ebola. È stato trovato un paziente zero di Ebola che è partito dalla Liberia. Ora rischia anche l'arresto, se si salverà, intanto prima deve essere guarito, perché questo paziente zero, Thomas Eric Duncan, partito dalla Liberia, molto probabilmente sapeva di essere entrato in contatto con il virus dell'Ebola e ha mentito arrivando negli Stati Uniti dicendo che non veniva da una zona, perché arrivava da Bruxelles, ha fatto Liberia, Monrovia, Bruxelles, New York, New York, Dallas, e ovviamente adesso c'è il controllo controllo di tutte le persone che hanno viaggiato in aereo con lui, 100 persone in quarantena a Dallas, quelle con cui è entrato in contatto, insomma una fobia e una paura giustificata ovviamente negli Stati Uniti, e rischia l'arresto questa persona che ha mentito dicendo non venivo da una zona a rischio contagio. Va bene, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi è il mio amico Tommaso Labate, sì, Tommaso Labate sul Corriere dedica mezza pagina al dibattitore partito ieri dal Fatto e oggi rilanciato dal Corriere, della Pascale arrabbiata perché dicono che i miei due migliori amici sono omosessuali. E io non. E voi non sapete a Napoli questo cosa vuol dire, infangarli così, ma poi, dice la Pascale, ma poi chi se ne frega se fossero omosessuali? C'è la privacy, partiranno le querele. Il dibattito sugli amici della Pascale sono omosessuali o no? Ma chi se ne frega!